9 in punto. Bentornati, eccoci qua a 9 in punto, argomenti di attualità. Oggi parliamo di petrolio, prendendo spunto dal fatto che il petrolio come attività industriale, come elemento che ha caratterizzato gli ultimi anni, è stato in fondo scoperto per la prima volta ed è stato utilizzato per la prima volta industrialmente il 27 agosto del 1859 con l'apertura del primo pozzo petrolifero a Titusville in Pennsylvania. 150 anni di onorata carriera e 150 anni che si vedono comunque sulle spalle del petrolio, perché è stato l'elemento di base della crescita economica, dell'industria, della crescita industriale di tutta la civiltà, direi mondiale, della civiltà globale, ma con tanti problemi, iniziando da quelli del prezzo dello stesso petrolio, finendo con quelli del clima, degli influssi sul clima, oltre ai problemi geostrategici che lo sfruttamento del risorse petrolifere comportano. Tanti temi. Oggi vorremmo però guardare un po' al di là della strettissima attualità del prezzo del petrolio, ma comunque ricordo che adesso è a $70, poco meno di $70, esattamente la metà, anzi un po' meno della metà del massimo raggiunto del luglio dell'anno scorso di $147. Quindi un prezzo sicuramente che crea meno problemi alle economie occidentali e che in un certo senso potrebbe tranquillizzare sotto il fronte della possibilità di mantenere, anzi di avviare quella crescita che dopo la forte crisi degli ultimi mesi tutti si aspettano. Il petrolio è qualcosa che condiziona fortemente le economie e anche sul fronte del prezzo indubbiamente è opportuno fare il punto e avere delle previsioni affidabili. Io ringrazio in anticipo i nostri ospiti che vi presento. Sono Davide Tabarelli, buongiorno Tabarelli. Buongiorno. Presidente di Nomisma Energia, una delle massime autorità, uno dei massimi osservatori sul fronte delle fonti energetiche, un attento anche osservatore dell'andamento dei prezzi del petrolio. Carlo Stagnaro, buongiorno Stagnaro. Buongiorno. Direttore del settore energia e ambiente dell'Istituto Bruno Leoni. Sissi Bellomo, giornalista del Sole 24 Ore. Buongiorno Sissi. Buongiorno. Che per il Sole 24 Ore segue il settore materie prime. E Mario Tozzi, buongiorno Tozzi. Buongiorno. Geologo, presidente del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, editorialista della Stampa e possiamo dire ambientalista, Tozzi? Preferisco la dizione ecologista perché ha una caratura scientifica diversa. Qui si fa ambientalismo per moda, invece l'ecologia si studia all'università ed è sempre preferibile parlare di quella. L'ecologia è una scienza, l'ambientalismo è una politica, la mettiamo in questo modo. Allora, grazie a Mario Tozzi. Ecco, ricordo, tra parentesi, Mario Tozzi è autore di un libro che vi consiglio, Viaggio in Italia, 100 più 9 emozioni da provare almeno una volta, i luoghi che merita scoprire se si vuole fare due passi in questo nostro paese così povero di petrolio ma così ricco di ricchezze naturali. Allora torniamo al tema del petrolio, andiamo a vedere il tema del petrolio. Abbiamo detto all'inizio il petrolio a $70, Sissi Bellomo, come è andato il prezzo del petrolio negli ultimi mesi? Un po' su e giù, ma sostanzialmente possiamo pensare che ha raggiunto un punto di equilibrio? In questo momento sembra aver raggiunto effettivamente un prezzo di equilibrio, ma soltanto perché sono mesi ormai che oscilla fra i 60 e i $70 o poco più. Difficile definirlo un prezzo di equilibrio anche nel lungo periodo, perché è un prezzo che in questo momento è piuttosto elevato se si considera che di petrolio ce n'è molto, la domanda ancora non si è ripresa assolutamente, soprattutto nei paesi industrializzati, nei paesi dell'OCSE. È difficile pensare che non ci possa essere una nuova salita dei prezzi nel momento in cui la ripresa, invece che essere soltanto anticipata dagli auspici degli investitori e dai famosi germogli verdi che gli economisti vedono in giro per il mondo e che effettivamente si stanno moltiplicando, difficile pensare che non possa salire di più quando la ripresa ci sarà davvero. Ricordo gli ascoltatori, l'800 24 00 24, il numero verde per le vostre telefonate, il 349 238 6666, per i vostri messaggi SMS. Se fosse possibile dividere un po', la Sissi Bellomo, questo prezzo, questi $70, in un prezzo industriale dettato dal mercato e in un prezzo dettato invece da fattori finanziari, da fattori speculativi, quanta parte possiamo attribuire ai fattori finanziari? Ma guarda, molte persone si appuntano proprio su questo elemento. La stessa OPEC distribuisce dei plan in cui afferma che gran parte del prezzo del petrolio e dei prodotti derivati dipende dalle tasse, dipende dalla speculazione, dipende da mille fattori. È vero che a bocca di pozzo, come costo di produzione, soprattutto in alcune aree del mondo, come nel Medio Oriente, costa molto poco estrarre il petrolio, costa una ventina di dollari in alcuni pozzi, tipo dell'Arabia Saudita, ancora oggi. Però parlare solo ed esclusivamente di speculazione è anche forse un po' una forzatura, nel senso che comunque il petrolio è un prodotto che ubbidisce ancora a leggi della domanda e dell'offerta. Magari si tratta in buona parte in certi periodi di una domanda finanziaria, di una domanda di investimento che non va trascurata. Questo è vero che influisce per una parte importante sul prezzo. Grazie Sissi Bellomo, e io andrei allora a guardare un po' al cuore del problema. Abbiamo parlato di 150 anni del petrolio e chiederei a Carlo Stagnaro, direttore Energia e Ambiente dell'Istituto Bruno Leoni, se è giusto e come festeggiare questo compleanno, e soprattutto poi con un'altra domanda: festeggeremo anche i 200 anni del petrolio, oppure, come dice qualcuno, stiamo andando verso un esaurimento per cui ci sarà un giorno in cui i pozzi non butteranno più nulla? Parto dal fondo: secondo me festeggeremo anche i 200.000 anni del petrolio, se saremo ancora qui tra 200.000 anni, nel senso che comunque vada, per quanto duri il petrolio, sia in senso fisico sia come fonte importante della nostra crescita economica, è al petrolio che dobbiamo almeno una quota significativa dello sviluppo che abbiamo avuto nell'ultimo secolo e mezzo, uno sviluppo che facendo il bilancio non può, da quasi ogni punto di vista, che essere considerato positivo, e che quindi ha portato miglioramenti sotto pressoché qualunque aspetto. E questo mi porta a dire che è giusto, vorrei dire doveroso, festeggiare i 150 anni del petrolio e ricordare il petrolio come qualcosa che ha migliorato la vita dell'uomo, dandoci sviluppo economico, consentendo un allungamento della vita media, consentendo una maggior soddisfazione dei bisogni alle popolazioni di qualunque area del globo, ovviamente con disparità e con differenze. Ecco, comunque Carlo Stagnaro, può essere una banalità, ma di fatto le risorse, gli giacimenti petroliferi sono in una quantità finita, limitata, non si possono espandere più di tanto, quindi a un certo punto dovranno pur finire. Anche il latte nel mio frigorifero è disponibile in quantità limitata, e quando vedo che sta calando scendo di casa e vado al supermercato a comprarne dell'altro. Lo stesso in qualche maniera vale per il petrolio, nel senso che man mano che ci rendiamo conto che la domanda supera le disponibilità, si mettono in moto una serie di meccanismi naturali di mercato. Da un lato viene ricercato più petrolio, o vengono cercate cose che possono funzionare come il petrolio, penso agli oli pesanti, o sull'altro fronte, su un fronte più ecologista, se volete, biocarburanti. Dall'altro lato si cerca di guardare a qual è il vero tipo di bisogno che il petrolio soddisfa, che è bisogno di mobilità, che è bisogno di energia e così via, e si cerca di trovare delle alternative più efficienti, più economiche, e questo ci fa pensare, ci fa sospettare che troveremo prima le alternative prima che il petrolio sia finito, che quindi la fine del petrolio non è una minaccia o un pericolo, ma semplicemente un punto d'arrivo ideale che non verrà mai raggiunto, come non è mai stato raggiunto per nessun'altra risorsa, per quanto finita sia stata consumata dall'umanità. Ecco Stagnaro, per raggiungere questo obiettivo, per cui ci sarà comunque un equilibrio, per cui le risorse energetiche saranno sempre disponibili, basta lasciar fare al mercato, o c'è bisogno di una politica attiva da parte dei governi, per esempio sullo sfruttamento delle fonti cosiddette alternative al petrolio e delle fonti rinnovabili? Guarda, io non credo, nel senso che se le fonti rinnovabili, in particolare sole e vento, che sono quelle che vanno più di moda oggi, sono davvero efficaci, davvero competitive e si imporranno da sole, così come il petrolio si è imposto da solo. Se invece non sono né efficaci né competitive, sussidiarle o addirittura renderne obbligatorio l'utilizzo significa semplicemente aumentare il costo dell'energia e quindi ridurre il benessere dei consumatori. Grazie Stagnaro, abbiamo già alcuni messaggi SMS che però riservo tra un attimo. Prima vorrei lasciare la parola a Mario Tozzi proprio per rispondere proprio su questo tema, su come puntare ancora sulle risorse energetiche, lasciare fare al mercato sul petrolio oppure attuare delle politiche attive sul fronte delle energie rinnovabili. Mario Tozzi. La domanda mi pare una domanda che tutti ci facciamo, cioè quando finirà il petrolio, ma sostanzialmente mal posta. La vera domanda è quando comincerà a costare troppo, al di là delle speculazioni economiche. E la risposta è fra poco, perché c'è una legge naturale che governa le risorse della terra, siano diamanti, oro, petrolio, carbone o quello che volete, che dice che quando si arriva a metà delle risorse, grosso modo quello è il momento in cui la risorsa comincia a essere più difficile da reperire e a costare troppo. Questo funziona per ogni singolo giacimento di petrolio e anche per il giacimento globale della Terra. E siccome abbiamo consumato circa 1.000 miliardi di barili, altrettanti più o meno ne rimangono, perché le stime più ottimistiche sono soltanto quelle delle compagnie petrolifere o dei paesi che hanno tutto l'interesse a gonfiare le proprie riserve, grosso modo quel picco del petrolio, così come si chiama, non è poi così lontano, probabilmente è una questione di anni. Ma poi la domanda vera non è nemmeno questa, la domanda vera è quanto tempo siamo ancora disposti a sopportare il carico negativo che bruciare petrolio ha comportato per le nostre esistenze, e la domanda dovrebbe essere zero, cioè non più di tanto. Il petrolio costa poco in termini assoluti solo perché non se ne considera l'esternalità, cioè il portato negativo di malattie, inquinamenti, cancri e varie cose che il petrolio porta con sé inevitabilmente. Quando si confronta il costo del kilowattora delle fonti rinnovabili con quello del petrolio, c'è un errore di fondo, lo stesso errore che si fa sul nucleare, cioè non si considera in quel costo il fatto che il kilowattora rinnovabile è quello che è, l'energia è gratis, una volta che è costruito l'impianto non ci sono sorprese. Il kilowattora invece da combustibili fossili, siano uranio o petrolio o quello che volete, ha una parte che noi paghiamo solo dopo come collettività, ed è quella del prezzo sociale per le malattie e le morti e dell'inquinamento in generale del pianeta. Dunque il petrolio è un cavallo di Troia che la terra ci ha lasciato, un frutto avvelenato che noi abbiamo accarezzato perché ci ha consentito uno sviluppo impetuoso. Ricordo peraltro che l'attesa di vita più lunga vale solo per l'Occidente ricco industrializzato, negli altri paesi si muore ancora grosso modo a 50 anni come attesa di vita, quindi non gli è cambiato poi granché, se non per il carico di inquinamento che ne ha portato. Fondamentalmente, come non è stato necessario finire le pietre per terminare l'età della pietra, sarebbe il caso di non far finire il petrolio o di non farlo costare troppo perché finisca queste che dal punto di vista della salute e dell'ambiente, se la guardiamo sui dati ecologici, ha portato il petrolio come protagonista in assoluto più negativo della nostra epoca. Tra l'altro bruciare il petrolio per far andare un'autovettura, girando una chiavetta di accensione e bruciando in qualche secondo una roba che la natura ha accumulato in milioni di anni, è un po' come riscaldarsi con bruciando mazzette da 100 euro quando fa freddo. Funziona, ma magari c'è un'altra maniera per ottenere lo stesso risultato. Ecco, Tozzi, però negli ultimi anni, negli ultimi decenni, indubbiamente c'è stata una spinta alle fonti alternative, alle energie rinnovabili, però di fatto queste energie rinnovabili, dato che almeno fino a 2 anni fa, prima della crisi, i consumi sono sempre cresciuti, hanno sempre avuto un ruolo abbastanza fisso, non sono mai riuscite a prendere il sopravvento, non dico a prendere il sopravvento, ma a crescere più di quanto crescesse il consumo di petrolio. Certo. Quindi qualcosa bisogna fare, senza peraltro dimenticare che già ora il consumo di petrolio, il consumo di benzina è fortemente tassato, perché il 75% del prezzo della benzina è costituito da imposte. Quindi bisognerebbe ancora di più aumentare queste imposte? No, ma guardi, la soluzione del costo della benzina quello che sembra un problema, cioè la benzina a 5 euro al litro, a 10 euro al litro, sarebbe in realtà la soluzione dal mio punto di vista, insomma, perché evidentemente non è più concepibile mandare, tra l'altro diciamo l'automobile, che è quella che usa più il petrolio, è veramente il mezzo di trasporto più antieconomico che c'è. Per spostare 80 kg di ciccia devi muovere 1500 kg di ferraglie e plastica, insomma francamente non si vede una cosa meno razionale dell'autovettura che come è noto consuma per muoversi soltanto una piccola percentuale di quello che gli metti dentro, il resto è calore e attrito. Ma detto questo, le energie rinnovabili che non sono certamente la soluzione definitiva, no? Perché non sono una risposta energetica totalizzante, vanno a copiare il risparmio energetico e la maggiore efficienza, solo in questa maniera funzionano meglio, mentre invece quello che si fa è combattere una infrastrutturazione complessiva del mondo per circa 10.000 miliardi di dollari, che è quella del petrolio in generale sul pianeta. E quale corporation smonta questa infrastruttura a favore di una nuova fonte di energia? Nessuna, fino a che non sfrutteranno il petrolio fino all'ultima goccia. Il petrolio consente dei ricavi che non sono nemmeno immaginabili. Considerate che in paesi come la Nigeria, che pretendono il 75% del ricavato, ciò nonostante le compagnie petrolifere continuano a tirar fuori petrolio perché gli conviene da morire, dunque è l'affare più lucroso che c'è sulla terra. Figuriamoci chi lo smonta. Quando il sistema è costituito, questo non viene certo smontato di fronte al risparmio energetico, all'efficienza oppure al decentramento delle fonti energetiche, perché questo è il punto essenziale. Col petrolio si concentra, si va in centrali come col gas e col carbone e con l'atomo, mentre invece con le rinnovabili si va casa per casa, paese per paese, e quindi si accoppi il risparmio alle rinnovabili, in certi casi addirittura la competizione è vinta da quest'ultima, anzi, ma direi molto decisamente. Se, certo, se per esempio noi coibentassimo bene gli edifici, ci sarebbe bisogno di molto meno riscaldamento, ma questo qualcuno lo vede fare? No, indubbiamente il risparmio energetico è una delle fonti di energia che potrebbe essere sfruttata meglio, così come sono d'accordo sul fatto che è meglio usare la bicicletta rispetto all'automobile, ma anche qui fino a un certo punto, se bisogna fare qualche chilometro in più, certe volte l'automobile è un mezzo che ormai è diventato indispensabile. Ma proprio parlando di automobili, parlando di prezzi del petrolio, era inevitabile arrivare, e direi che tutti i messaggi SMS che sono arrivati finora parlano del prezzo della benzina, perché è il fattore che in fondo tocca più da vicino il portafoglio di ciascuno di noi. Davide Tabarelli, in questa prospettiva, è sicuramente uno dei maggiori esperti. Gli SMS ci dicono: le compagnie petrolifere rubano sul prezzo, c'è una grande speculazione. Come mai adesso che il petrolio è a $70 i prezzi sono abbastanza vicini, un po' più bassi ma non troppo rispetto a quando i prezzi della benzina sono più bassi ma non troppo rispetto a quando il petrolio era a 147? Allora, Davide Tabarelli, è giusto il prezzo della benzina attualmente? Sì, è giusto. Questo scatenerà altrettanti messaggi SMS, perché tutti ritengono che il prezzo della benzina non sia giusto. Allora, come mai? Il consumatore normalmente, quando fa la spesa, è sempre diffidente di colui che gli vende qualche cosa, in particolare quando si tratta di un bene così importante e pervasivo come la benzina, consumata da circa 32 proprietari di automobili, 32 milioni di proprietari di automobili, poi abbiamo altri 10 milioni di autoveicoli, siamo uno dei paesi più motorizzati al mondo. Come accade nel resto del mondo, però anche da noi ci si lamenta sempre dei prezzi della benzina che sono troppo alti. Un anno fa avevano toccato a luglio 2008 155 centesimi la benzina per litro. Adesso siamo scesi a 130 e questi prossimi giorni arriveranno probabilmente qualche altro aggiustamento al ribasso, però un po' di instabilità. Le cose sono molto semplici: si prende il prezzo internazionale della benzina, questo famoso Platz, quotazione Platz, ci si mettono su le tasse più un margine normale che è intorno ai 14 centesimi per litro, che questi 14 centesimi, ripeto, sono quello che vanno a remunerazione dell'attività di distribuzione del petrolio, del raffinato, della benzina, più sono 4 centesimi per quello che fa la benzina, cioè il gestore, poi c'è la pubblicità, c'è un po' di costi, gli investimenti, insomma, alla fine la compagnia rimangono 2-3 centesimi. Certamente le compagnie petrolifere in generale guadagnano tanto, ma guadagnano tanto nella fase di produzione del greggio, non in quella della distribuzione. Un po' lavorano, quando lavorano al greggio guadagnano, nella raffinazione ma non tantissimo. In sostanza c'è questo malinteso, cioè quello di vedere i grandi profitti dell'industria petrolifera, che durano da sempre, da quel famoso 150 anni, da quel 27 agosto del 1859, ecco, però questi profitti si fanno nella fase di produzione del greggio, non in quella distributiva. Quindi, in pratica, tenendo conto che gran parte del prezzo della benzina è costituito da tasse e che i margini delle compagnie sono molto pochi, forse 1-2 centesimi, che è poi quello che varia da una compagnia all'altra, si possono spuntare, ma non molto di più. Non c'è una speculazione da parte delle compagnie petrolifere sul mercato della benzina al consumo, Tabarelli? No, le cose tutt'altro, anzi in questo periodo paradossalmente è uno dei periodi di maggiore concorrenza sul nostro sistema distributivo, perché la nostra grande azienda, che è anche posseduta dallo Stato ancora, ha lanciato una campagna molto aggressiva da 2 mesi, che è quella di fare degli sconti di 10 centesimi per litro sui distributori che hanno il self-service aperto negli orari di chiusura, di notte o durante il weekend. Questo meno 10 è stato seguito da altre compagnie, dall'altra grande americana, insomma era partita l'Eni, poi è stata seguita da ExxonMobil e poi anche le altre, adesso anche Api sta facendo la stessa cosa, insomma forti, forti sconti, e chi è attento, quel consumatore che è attento, può avere dei risparmi sensibili, ecco, su un pieno di 50 euro, 10 centesimi, sono sempre 5 euro, perciò sono importanti. È un paradosso, ecco, la speculazione, si parla in questo momento di speculazione molto, ma se ne parla dove se ne deve parlare, cioè negli Stati Uniti, da dove partono i prezzi del petrolio. Da alcune settimane sono cominciate le audizioni della Commodity Futures Trading Commission, che è quell'organo federale che esiste dal 1974 per vigilare sui mercati a termine. Il mercato a termine più importante al mondo per commodity fisiche è il New York Mercantile Exchange, che è stato acquistato dal Chicago Mercantile Exchange, e qua c'è un investigation in corso che per stabilire quanto è la speculazione, quanto conta sul prezzo del petrolio. Ecco, noi pensare che in Italia ci chiediamo che possiamo intervenire su questa grande speculazione è inconcepibile, perché non ci riesce neanche il presidente Obama. Grazie, beh, già fatto sapere che c'è, vuol dire che possiamo anche avere però qualche elemento di giudizio in più. Bentornati, stiamo parlando di petrolio, dei problemi, del prezzo, della disponibilità, delle ricadute ambientali dell'utilizzo del petrolio. Andrea da Salerno, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la vostra trasmissione. Le volevo solo dire una cosa. Io ho visto 2 anni fa la Mercedes che camminava con l'idrogeno, che non è inquinante, non costa niente. Non ho capito perché dobbiamo mettere le centrali nucleari noi, che poi non sappiamo dove buttare le cose. Beh, guardi, che non costi niente l'idrogeno, ho qualche dubbio. Anche l'idrogeno è una cosa che non si trova in natura, va prodotto. Si ricava dell'acqua, ma per ricavare l'idrogeno ci vuole dell'energia elettrica. L'energia elettrica va prodotta in qualche modo e viene prodotta attraverso il petrolio. Quindi l'idrogeno, poi sentiamo che gli esperti, però l'idrogeno ha un suo costo, e il fatto che non si sia appunto imposto come elemento di alternativo al petrolio avrà qualche ragione, oltre a che gli interessi delle compagnie petrolifere. Comunque, Andrea, ci dica pure. E questo volevo dire questo, che non inquina, certo. Le macchine camminano lo stesso, ha un costo inferiore. E che abbia un costo inferiore, ho qualche dubbio. Comunque sicuramente ci sono degli esperimenti, sia della Mercedes, sia della BMW, sia della stessa Fiat, di macchine ad idrogeno, ma per ora l'economicità mi pare che non sia dimostrata. Marco da Roma, buongiorno. Buongiorno, l'appunto che volevo fare io era questo. Io ho cercato in tutti i modi di chiedere ai mezzi di informazione, giornali, radio e così via, di dare il doppio prezzo del petrolio, cioè quello in dollari e il controvalore in euro, perché in ogni caso le compagnie incassano da noi, per esempio in Europa, in euro e pagano in dollari. E io sono sicuro che ne vedremo delle belle. Sarà molto difficile dire è aumentato il petrolio quando magari si vede che il prezzo in euro è lo stesso di ieri. Grazie, indubbiamente ci sono stati anche dei movimenti valutari negli ultimi mesi, l'euro si è apprezzato rispetto al dollaro. Io chiederei subito a Tabarelli se questo può avere un'influenza sui prezzi della benzina, o se appunto i prezzi della benzina non possono non tener conto anche del cambio euro-dollaro. Ovviamente quando dico si prende il prezzo internazionale della benzina, che è quotato in dollari per tonnellata, poi si moltiplica per la quotazione del giorno, cioè un dollaro, un prezzo internazionale della benzina di $600 per tonnellata viene diviso per 1,3 e si ottiene a circa 500 euro per tonnellata, e poi si trasforma in litri, perché da un chilo di benzina si ottengono 1,3 litri circa di benzina. Perciò ovviamente questi sono dei calcoli proprio automatici che si fanno, perciò si tiene ovviamente conto, e ripeto, tenendo conto del prezzo internazionale, del cambio, alla fine c'è sempre un margine sulla benzina lordissimo di 14 centesimi, cioè i consumatori si devono ricordare che quando vanno a fare benzina, che lasciano giù 1,3 euro per litro, che secondo me è un prezzo bassissimo per l'utilità enorme che ci dà la benzina, tenendo sia conto delle esternalità, come venivano ricordate prima, che sono negative perché esce della CO2, dell'ICO, degli idrocarburi in combusti, dal tubo di scappamento, ma tenendo conto anche delle esternalità positive che ci sono sempre per la mobilità, per la facilità di stoccaggio di questo carburante, ecco, tenendo tutto questo il prezzo è estremamente basso, certo è più alto rispetto alla media storica o magari è più alto da noi di 3 centesimi rispetto a quello che può essere nel resto d'Europa dove ci sono in alcuni paesi gli ipermercati, ma tenendo tutto conto di questo ci sono 14 centesimi di margine lordo che sono copertura dei costi di distribuzione, dei profitti delle compagnie, 4 centesimi per il gestore, i costi dei bollini per le campagne promozionali che sono tanto amate dagli italiani, il servizio sul punto vendita. Ecco, il resto sono quasi 70 centesimi di tassa e poi c'è il prezzo internazionale della benzina che va a ripagare il prezzo del barile, dove lì effettivamente possiamo discutere se ci possa o meno essere un po' di speculazione. Ecco, un ascoltatore con SMS ci dice: in Svizzera la benzina costa meno, forse il petrolio lo pagano meno gli svizzeri, ma forse hanno anche meno tasse. Un po' meno tasse e poi quel 14 centesimi che dicevo prima di margine lordo sono un po' meno, intorno a 12 centesimi, perché lì hanno una rete distributiva molto più leggera, molto meno punti vendita. Qualsiasi punto vendita che andiamo a frequentare in Svizzera è aperto 24 ore su 24 e vende di tutto, perciò il gestore del punto vendita può fare profitti su giornali, latte, pane, bar e scaricare e alleggerire un po' i profitti sulla benzina, per questo a 12 centesimi di margine invece che i nostri 14, però alla fine sono sempre 2-3 centesimi al massimo di differenza su 133-130 che adesso il prezzo. Sempre sui prezzi della benzina, un argomento che è molto caldo. Cesare da Latina, buongiorno. Sì, ci dica se riesce a far star zitti i bambini. Sapere quanti italiani sanno quant'è il prezzo internazionale della benzina e del gasolio, e con questo critico anche poi i giornalisti che non avete, praticamente non l'avete mai dato, viene dato il prezzo del petrolio in barili e in dollari, e io vorrei sapere quanti italiani sanno quanto costa il petrolio, un litro di petrolio in euro. Questo è la prima cosa, cioè su un settore in cui girano tanti miliardi la trasparenza mi sembra che non ce ne sia tantissima. Io non so se le compagnie, non ho mai capito se le compagnie petrolifere acquistano il petrolio pagando in euro, oppure acquistano la benzina, oppure acquistano il gasolio già trasformato. Questa cosa ancora non l'ho capita. Grazie, Cesare da Latina. È un colpo per i giornalisti. Ricordo che il barile di petrolio, si parla sempre di barili, sono 159 litri e questa unità di misura risale proprio a 150 anni fa, perché si usò per il petrolio i barili che in Pennsylvania si usavano per il whisky. Allora, sì bell'uomo, ma è vero che i giornali nascondono la verità sui prezzi del petrolio? Messa così suona proprio male, è vero, e forse facciamo un errore che dovremmo convertire più spesso, mettere più spesso un'indicazione fra parentesi, ossia tot euro. Accolgo la provocazione e ci penserò in qualche prossimo articolo, penserò a metterlo. Non c'è nessun piano per nasconderlo, in realtà è anche un po' difficile indicare i prezzi della benzina, perché la benzina effettivamente è quotata negli Stati Uniti al NYMEX, ma è la benzina sul mercato americano che ha scarsi riflessi su quello che poi è la benzina da noi. La benzina da noi si prende a riferimento il prezzo Platts di cui parlava il dottor Tabarelli, che è riferito più ai carichi in arrivo nel nodo di Amsterdam, Rotterdam, e sono quotazioni insomma che vengono molto seguite, che sono trasparenti, vengono seguite dagli specialisti, non vengono ritenute così magari a torto così interessanti da essere costantemente divulgate a un pubblico generico. Ripeto, magari sbagliamo. Quanto al prezzo della benzina, Tabarelli dice è bassissimo, volevo aggiungere, e pensate che altrove è ancora più basso, perché negli Stati Uniti è la metà, in paesi del Medio Oriente, produttori di petrolio, addirittura costa pochi centesimi al litro, ma questo non è un vantaggio per chi lo paga poco, è uno svantaggio a livello globale. Quando la benzina costerà veramente tanto, allora saranno davvero stimolate le alternative. Tozzi si chiedeva prima, ma quale corporation smonta un affare così lucroso? Per me la risposta è semplice, un'altra corporation che trova un affare più lucroso. Grazie, quindi lasciamo fare al mercato, speriamo che qualcuno riesca a fare affari con le energie alternative. Sissi Bellomo, ricordo, giornalista del Sole 24 Ore, io non seguirei tanto la strada, non mi sembra che sia molto popolare la strada di essere favorevoli ad un aumento del prezzo della benzina, giudicando dagli sms che arrivano sembra che ci sia molta preoccupazione. Però ecco, anche se non è popolare, comunque il fatto di avere un'attenzione complessiva alla gestione dell'ambiente, alla gestione dell'economia, ai riflessi che comporta un certo tipo di sviluppo, per esempio della motorizzazione, è indubbiamente un essere coscienti della realtà del mondo che ci circonda e partecipare anche alle scelte non solo per noi ma anche per i nostri figli. Paolo da Palermo, buongiorno. Buongiorno, gli spunti per un intervento sono diventati tanti. Prendiamone allora, uno. Prego. Allora, il fatto che controllare la speculazione sul prezzo del petrolio a rialzo non ci riesca nemmeno Obama, questo diciamo che è un dato di fatto, però non dobbiamo dimenticare nemmeno una cosa, che le previsioni finanziarie sono una cosa impossibile, abbiamo visto la crisi che ci ha colpito. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo una sola certezza, che il prezzo del petrolio era arrivato a 150-160 dollari al barile, appunto perché c'era una speculazione. Non dobbiamo dimenticare nemmeno che i popoli, perché gli stati sono i popoli, hanno aiutato le banche con i soldi nostri, noi siamo col culo a terra, scusate la frase, e non è vero che nemmeno Obama riesce a controllare la speculazione. A questo punto si dovrebbe imporre di controllare la speculazione sul prezzo del petrolio, perché chi piange le conseguenze a questo punto siamo tutti noi. E brevemente vorrei dire una cosa, che in tutti i posti del mondo la benzina costa di meno, soltanto in Italia costa di più, e abbiamo tutte le scuse perché il gestore paga questo, perché costa quello, perché quello, ma anche le banche fanno le stesse cose, perché i conti correnti in Italia costano più di tutti. Quindi diciamo che l'Italia è il paese dei balocchi per i grossi. Beh, e anche, se vi consente, è anche il paese delle tasse, perché la benzina in Italia costa di più, e peraltro non è del tutto vero, perché girando un po' in Europa il prezzo della benzina anche in altri paesi è più o meno allineato, forse qualche centesimo meno, è più o meno allineato a quello italiano, però il peso delle tasse sulla benzina in Italia è molto forte. Io a questo punto vorrei fare intervenire però Carlo Stagnaro. Si è parlato molto di speculazione, di controlli, di necessità di interventi, anche di aumentare, diciamo, artificialmente il prezzo della benzina per ridurne appunto i consumi. Cosa ne pensa Stagnaro? Dunque, distinguerei nettamente le due cose. Sulla speculazione sicuramente c'è una componente speculativo finanziaria nel prezzo del petrolio, che poi impatta anche sui prezzi della benzina in Italia e ovunque nel mondo. Bisogna chiedersi se per forza è negativo che ci sia una componente finanziaria, e se i tentativi di controllarla ci porterebbero in un mondo migliore o peggiore. Io credo che il fatto che la speculazione possa alterare i prezzi denuncia in realtà dei problemi che stanno a monte, che stanno nel rapporto tra capacità produttiva, domanda, consumi, eccetera, e quindi di fatto incentiva nuovi investimenti per risolvere nel lungo termine questo tipo di strozzature. E se la mettiamo in questi termini, addirittura la speculazione, non dico che svolga un ruolo positivo, però sicuramente svolge quantomeno il ruolo di segnalare un problema e di contribuire a mettere in moto i meccanismi per risolverlo. Sul prezzo della benzina, no, io non sono di quelli che dicono che più aumenta più sono felice. Bisogna distinguere anche qui due temi diversi. Un conto è il prezzo, chiamiamolo industriale, della benzina, e qui mi viene da dire che il prezzo di mercato è sempre quello giusto, perché è sempre quello che riflette l'equilibrio tra domanda e offerta. Però il prezzo di mercato non è il prezzo che noi paghiamo, quello che noi paghiamo è il prezzo di mercato più la componente fiscale. Quindi se davvero c'è una maggioranza di cittadini che ritiene che la benzina costi troppo poco, o che le esternalità ambientali negative non siano debitamente incorporate nel prezzo, cosa su cui credo si possa discutere ampiamente, benissimo che questa maggioranza venga fuori, alzi la mano e faccia pressioni sul governo e sulla politica perché aumentino le accise sulla benzina. Io sarò sempre dall'altra parte. Ma mi sembra che anche molti ascoltatori sono dall'altra parte, giudicando dai messaggi SMS 349-238-6666. Tutti si lamentano del prezzo della benzina, che in Italia è troppo caro, da altre parti costa molto meno. In Spagna un ascoltatore ci fa un esempio della Spagna, dove costerebbe addirittura 20 centesimi di euro in meno. Mi sembra difficile, ma anche un ascoltatore ci dice: in un ipermercato costa 60 centesimi in meno. Ma Tabarelli, no, forse 60 centesimi sono troppi, forse sono 6 centesimi in meno che potrebbe arrivare a costare. 6 centesimi per litro, cioè il prezzo internazionale, ripeto, il netto delle tasse. Io sto guardando in questo istante dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, che invito tutti a fare, perché quando si parla di queste cose, come parlare dell'inflazione, che l'Istat non ha ragione, non si possono contestare i dati, cioè ci dobbiamo affidare a quelli. Allora bisogna andare a prendere le statistiche ufficiali disponibili settimanalmente sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Il prezzo italiano al netto delle tasse per il 10 agosto è 52,5 centesimi per litro, in Spagna è 51 centesimi per litro, è più basso di un centesimo. Queste sono le statistiche ufficiali. Poi in Spagna, come anche in Italia, ci sono gli ipermercati, forse là ce ne sono di più che qua, e là ci può essere che ci sia un punto vendita che fa 6-7 centesimi, ma anche noi vicino a Verona ce n'è uno famoso che fa 10 centesimi, ripeto, in sti giorni, ma non bisogna andare negli ipermercati. Ci sono le tre più grosse compagnie, si fanno una concorrenza agguerrita per 10 centesimi in meno al litro. Queste sono vendite sotto costo, queste sono le statistiche ufficiali. Poi io in questo momento sono nel Salento, vado in giro, vedo che ci sono un sacco di pompe bianche che crescono. Tra l'altro il numero dei distributori in Italia, paradossale, ne abbiamo un quinto di tutta Europa, sta crescendo, e questo vuol dire che il settore ci si guadagna. Certo, quei 14 centesimi forse attraggono nuovi entranti, ma vuol dire che anche c'è molta competizione. Ecco, che i consumatori stiano attenti, vadano a fare benzina se vogliono nelle pompe bianche, dove possono esserci 2-3 centesimi. Grazie Tabarelli, dobbiamo... è stupido. Bentornati, ultima parte del nostro programma dedicato oggi al petrolio, alla benzina, al prezzo della benzina. Prima di tornare su questi temi molto caldi della congruità del prezzo della benzina, vorrei però sentire l'ecologista Mario Tozzi cosa pensa sul dibattito che abbiamo avuto sul fronte del fatto di che poi si è arrivati sempre al prezzo della benzina, di usare la leva del prezzo per portare appunto a delle scelte più consapevoli e più responsabili da parte dei cittadini. Mario Tozzi. Sì, francamente rimango un po' sconcertato dal fatto che in un paese come il nostro, totalmente alienato dall'autovettura, siamo il paese con più autovetture in Europa, proporzionalmente quasi 35 milioni, quanti sono di veicoli, ce n'è veramente in abbondanza da noi, la cosa non sia riconvertire il traffico privato eventualmente in maggiore traffico pubblico su gomma, e anzi eliminare il traffico su gomma o perlomeno ridurlo, ma invece il problema sia quello di pagare di meno la benzina per poter continuare ad andare in automobile. Francamente rimango un po' sorpreso. Io lo dico perché all'auto ci ho rinunciato, e sarebbe la cosa più saggia da fare per chi naturalmente può, non tutti evidentemente possono, ma insomma in una città come Roma, quella in cui vivo, l'automobile l'ho data via e basta. Perché oltre ad alienarmi la coscienza, a farmi spendere parecchio, mi pare che sono 300.000 euro nella vita di ciascun italiano, spese per l'autovettura tutto compreso, assicurazioni, olio, in tutta una vita. Insomma, sono francamente tanti soldi. Invece continuiamo a dibattere se per caso deve costare di meno la benzina o cos'altro. Insomma, francamente non vedo come ne possiamo uscire fuori. Il petrolio, come tutte le risorse naturali, è destinato a finire evidentemente, no? Perché la Terra è un pianeta che hanno smesso di creare da un bel po', dunque non è che può rigenerarsi. Per generare un giacimento di petrolio ci vogliono milioni di anni, per bruciarlo pochi secondi, l'abbiamo visto. Dunque non può funzionare proprio da un punto di vista fisico prima che economico, e per quello che ne so io, l'economia è un sottosistema della biosfera, cioè se non c'è una biosfera integra non c'è nemmeno economia. Quindi continuare a parlare di mercato e di queste cose qui, ma fa anche piacere, lo imparo volentieri un sacco di cose, ma il limite delle risorse ce lo vogliamo porre come problema o vogliamo continuare a rimandarlo? Il limite delle risorse è molto chiaro, noi uomini siamo sempre di più, le nostre esigenze sono sempre maggiori, la terra è sempre quella. No, ditemi voi, come si fa ancora a discutere? Però Tozzi, anche l'umanità ha saputo risolvere dei problemi, le persone, la tecnica, la tecnologia, le capacità di innovazione hanno saputo affrontare i problemi che sono presentati e non per nulla, si ricordava anche prima, nel paese occidentale la speranza di vita è cresciuta enormemente e speriamo che cresca anche negli altri paesi. Prego. Posso però dire, no, questo secondo me è una falsa soluzione, nel senso che quella soluzione è consentita a noi occidentali ricchi, e vale la pena di ricordarlo, soltanto perché altri non ce l'hanno. Non so, noi possiamo avere due autovetture per uno, perché 20 cinesi vanno in bicicletta. Se quei 20 cinesi volessero l'autovettura, già oggi non basterebbe tutto il petrolio del mondo. Mi pare che si calcola che se tutti i cinesi volessero l'automobile come gli occidentali, si dovrebbero consumare una cosa come 65 milioni di barili di petrolio, cioè sostanzialmente poco meno di quello che si consuma per tutto il resto del mondo. Quindi non è proprio fisicamente possibile. Noi siamo in questa condizione perché qualcuno non ha. Perché il prezzo lo pagano o altri uomini o l'ambiente, non si può uscire da questo tipo di rigore logico, non possiamo inventarci che domani tutti arriveremo al livello di benessere o di spreco degli Stati Uniti, dove la benzina costa al gallone quanto noi la paghiamo al litro, perché questo non è possibile per via della terra, per come è fatta. Dunque è un'illusione dire che la tecnologia ci risolve questi problemi, qualche volta peraltro ci fa anche complicati, ma in realtà non li risolve affatto, li rimanda. E questo rimandare continuamente i problemi è tipico della nostra congiuntura, diciamo, sociale di umanità, ma non li risolve davvero. Io sono... Grazie. Può essere fatto. No, grazie Mario Tozzi, sicuramente una testimonianza, diciamo, un po' profetica, anche altrettanto sicuramente autorevole, che merita indubbiamente una riflessione. Io resto più convinto che l'uomo ha della possibilità e l'intelligenza di affrontare i problemi, anche se qualche volta è indubbiamente utile riproporre e tenere la coscienza su questi problemi, che non sono solo nel nostro piccolo ambito, ma vanno visti spesso in un ambito, anzi sempre in un ambito globale, in un ambito proprio di salvaguardia della quella risorsa naturale che ci è stata affidata e che noi dobbiamo restituire il più possibile integra ai nostri figli. Ma abbiamo pochi minuti, io farei un rush finale proprio dedicato, mi pare, al tema caldo che è quello dei prezzi della benzina. Stefano da Verona. Ah, buongiorno. Buongiorno. Stefano da Verona, buongiorno. Niente, la mia considerazione era che appunto, avendo fatto un viaggio recentemente in Malesia una settimana fa, a Kuala Lumpur ho visto un prezzo della benzina proprio alla pompa di 36 centesimi di euro, quindi insomma un prezzo decisamente molto più inferiore. Di cui di tasse lei però non si è informato quanto pagano i malesi. Purtroppo no, però da quello che so come tasse, visto che ho conosciuto anche un italiano che è un ristorante lì in Malesia, insomma non è così pesante il fisco, diciamo. Probabilmente se non ci fossero le tasse costerebbe 36 centesimi anche in Italia. Dico, cioè, già noi di tasse ne paghiamo molte, quindi noi alla fine sì, abbiamo i nostri redditi, paghiamo sul reddito, ma paghiamo anche moltissimo su tante gabelle che ci mettono, tra cui anche la benzina, che decisamente sì, se la costa 36 centesimi e hanno comunque un genere di vita nettamente inferiore al nostro e comunque per loro è abbastanza cara, voglio dire, quindi, da noi sicuramente potrebbe costare senz'altro meno, anche perché mi sembra strano che l'anno scorso costava il doppio il petrolio al barile e certo la benzina non è diminuita della metà, è diminuita forse di un... Beh, questo perché appunto si è spiegato, c'è una quota di tasse che non è diminuita ed è rimasta in tale, quindi mai, in effetti, quindi anche se il petrolio costasse 10 euro al barile, secondo me sarebbe sempre questo il prezzo. Assolutamente sì. Grazie mille Stefano. Sentiamo Luigi da Bergamo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, la mia domanda è abbastanza semplice. Volevo mettere in risalto l'adeguamento relativo al prezzo della benzina relativo all'oscillazione del costo in dollari del petrolio. Vale a dire, quando il costo del petrolio aumenta, l'adeguamento è immediato, quando diminuisce l'adeguamento invece ritarda di una, due, tre settimane. Questo surplus di guadagno a chi va? Grazie Luigi. Allora, Davide Tabarelli, è vero che c'è questa piccola speculazione delle compagnie petrolifere che quando i prezzi del petrolio diminuiscono ritardano ad applicare queste diminuzioni sul mercato? Tabarelli. Non esiste. esiste, è una percezione molto diffusa in tutti i paesi consumatori. Ripeto, il calcolo è molto semplice, il prezzo del benzina internazionale scende dopo 2 o 3 giorni o un giorno, scende anche quello alla pompa. L'adeguamento può essere più o meno lento, a volte capita, ma questo anche all'insù, ecco, gli adeguamenti possono sembrare più veloci ma non lo sono. Quello che conta sono le medie della differenza tra prezzo alla pompa, al netto di tassa, e il prezzo internazionale. Questa differenza è sempre intorno ai 14 centesimi, quello che conta. Sull'argomento è stato fatto un'indagine antitrust già nel 96, invito tutti ad andarlo a scaricare sul sito dell'antitrust e vedere lì che cosa dice. Il prezzo poi della benzina un anno fa era $1,300 adesso è $600, è sceso più della metà a livello internazionale. Alla pompa con le tasse c'è stata una diminuzione di circa 30 centesimi. Ecco, in questo senso, Tabarelli, i meccanismi attuali anche di informazione, lei ha guardato spesso i siti del Ministero dell'Industria, cioè c'è la possibilità da parte del consumatore di avere un'informazione adeguata, tempestiva ed effettiva su quelli che sono gli andamenti dei prezzi? Adesso nell'intenzione del governo, come anche quello precedente, poi è quello di continuare a dare maggiore trasparenza. Tutti andiamo sulle autostrade e vediamo i benzacartelloni che poi non sono leggibili, insomma, fanno parte di questi tentativi. E il Ministero si è preso l'impegno di rendere maggiormente diffuse, c'è stato il famoso decreto Fioroni, dal nome del senatore che l'ha presentato come proposta di legge, di diffondere con maggiore tempestività e i prezzi della benzina, ma quello che serve soprattutto è la maturità del consumatore, maggiore intelligenza, che è poi quella che tutti hanno, e quella di stare attenti, confrontare, certo, dire costa meno in Spagna rispetto costa meno l'Italia, ma perché abbiamo più distributori, cerchiamo di andare a fare benzina dove il prezzo è molto più basso, ad esempio questi self service che fanno la promozione in questo periodo, quando, e facciamoci la benzina da solo. Un'altra cosa poi particolare, che gli italiani amano farsi fare la benzina perché non amano sentire ovviamente l'odore del gasolio della benzina sulle mani. Beh, è un po' fastidioso, dobbiamo dire, l'odore del gasolio sulle mani. Grazie Tabarelli, dobbiamo concludere qui, ci sarebbe molto da dire, molti messaggi SMS di cui vi ringrazio, alcuni parlano di truffe delle compagnie petrolifere, c'è questa tendenza, indubbiamente ogni compagnia, ogni società cerca di fare i propri interessi, però indubbiamente in Italia c'è un mercato, c'è il confronto, non possiamo dire che il consumatore non possa scegliere se andare a fare benzina da una parte o dall'altra, da un distributore o dall'altro, magari appunto facendo qualche chilometro in più, andando a cercare qualche ipermercato dove la benzina costa meno. C'è la possibilità di risparmiare, c'è la possibilità di confrontare i prezzi, di avere informazioni anche sui prezzi, tenendo conto appunto che comunque gran parte del prezzo che paghiamo è un prezzo dovuto alle tasse, dovuto all'imposizione fiscale, che rende questo prezzo abbastanza alto, più alto dei prezzi industriali. Il prezzo della benzina è comunque, la benzina è qualcosa che è di utilità nello sviluppo del traffico, ma sempre non dimenticando, lo abbiamo fatto anche con accenni particolari al fatto che bisogna avere un'attenzione profonda e sensibile da parte di tutti anche all'ambiente e alle conseguenze dei nostri gesti. Si conclude qui questo nostro festeggiamento dei 150 anni del petrolio. Ringrazio Davide Tabarelli, Carlo Stagnaro, Mario Tozzi e Sissi Bellomo che sono stati con noi, in redazione Giorgio Mattè, in regia Giorgio Mattè, in redazione Alessandro Marco Tulli. Ringrazio quanti ci hanno ascoltato. L'appuntamento è per domani, parleremo di Colf, Badanti e immigrazione. Grazie.